per niente divertente quando ti accorgi che certe cose, che certe cose nella vita non le rivivi più. E le abitudini cambiano, cambiano, e le promesse cambiano, cambiano. Qui cambia tutto, cambia, ma non cambi tu. Chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare lì davanti al porto, in quei giorni in cui non senti niente, che ti manca il fiato e non sai il perché. Ma questi siamo noi. Stropicciati con i sogni accartocciati, ci danno sempre per spacciati. E negli ultimi anni mi sono reso conto che il tempo è tempo perso se lo stai a aspettare, e che qualche cazzata forse me la potevo pure risparmiare. E tra le paure che cambiano, cambiano, le tentazioni che cambiano, cambiano, intanto tutto cambia e tu rimani sempre tu. Lo so cosa ti viene in mente quando guardi il mare lì davanti al porto, quando pensi che non c'è più niente, piangi di nascosto e non sai perché. Questi siamo noi. E la la la la la. Maledetti innamorati, coi sentimenti stropicciati, con i sogni accartocciati, ci danno sempre per spacciati. Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.